Una donna piena di ammirazione per Gesù si rallegra pubblicamente con Maria Santissima, che ha dato a Gesù la vita. Si ha nell'esclamazione di questa donna il primo avvertimento della profezia di Maria Santissima in Luca capitolo 1 versetto 48, che dice: Ecco che da questo punto tutte le generazioni mi chiameranno beata. È da ammirare la fede di questa donna, la quale proclama la grandezza di Gesù Cristo proprio nel momento in cui i farisei lo bestemmiano. Nel versetto 28 Gesù non nega che Maria Santissima sia beata per avergli dato la vita, ma fa osservare che maggiormente beati sono coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio. Udire la parola di Dio è quasi concepire Gesù. L'osservarla è come un darlo alla luce. Maria è senza dubbio beata per aver dato la vita a Gesù, ma è più beata ancora per aver fedelmente ascoltato e praticato la parola di Dio.